24 Mattino. Scusi Spezia, lei è tanto bravo, però non capisco come mai c'ha sempre questo tono sardonico nei confronti delle sardine. Abbia pazienza, ma almeno lo dica chiaramente che non li sopporto. Poi fate risentire queste stupidaggini lunedì mattina, quando tutti diranno che grazie alle sardine ha stravinto la Borgonzoni. Oh, oh, ma no, ma non è un tono sardonico, figuriamoci. Il mondo si divide, anzi l'universo si divide, e questo insomma, arriverà l'accusa di essere sardonico tra chi ama le sardine e chi le odia. Va bene, va bene. 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio. Ma no, sapete com'è, sapete com'è, è che se volete proprio sincera, da, chiamiamola così, professionisti della comunicazione, quando passi tutte le giornate, vale per le sardine, vale per Salvini, vale per tutti gli altri leader politici, ma in particolare sardine e Salvini, perché sono quelli un po' più presenti in questo periodo, passi tutti i giorni, no? Non dico a occupartene, ma a vedere notizie, a informarti, a leggere i giornali, eccetera, eccetera, poi a un certo punto un minimo di disincanto, quantomeno, scatta. Va bene. Siamo alla seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. E diamo come sempre una scorsa alle prime pagine dei quotidiani, che devo dire sono abbastanza varie per essere una giornata tutto sommato quasi preelettorale, perché poi si vota domenica. Corriere della Sera ha il titolo in testa su Crimi, perché un'intervista a Vito Crimi che dice di non sentirsi un traghettatore, ho tutti i poteri del capo politico. Ma il titolo forte sul virus, sul coronavirus, la Cina isola quattro città, è il titolo. Cina isolata, timori in Europa, è l'apertura del Messaggero, e anche qua le parole di Crimi e l'eredità di Di Maio. Non sarò un passacarte, dice Crimi. Arrembaggio Salvini e Conte in trincea, il titolo della Repubblica. La Stampa intervista il commissario europeo Paolo Gentiloni. Web tax entro un anno, dice. E c'è anche un titolo per la Cina, ovviamente, virus, 20 milioni di cinesi in isolamento. Quotidiano Nazionale, la telefonata che avvelena il voto, è il sindaco di Iolanda di Savoia che accusa Bonaccini e pubblica le sue frasi su Facebook. Attenti al lupo è il titolo del Manifesto, con foto delle sardine in piazza. Di Maio è andato, i danni rimangono sul reddito di cittadinanza, è il titolo di Libero. La Verità, dopo essersi sbarazzato di Di Maio, Grillo si fa condonare le cause dal PD. Il Giornale, e ora trema Conte. Il Fatto Quotidiano, mamme e bambini per un pugno di voti su Salvini e Bibbiano. Avvenire, l'Italia non riesce più ad adottare il mondo, crollano nel 2019 le procedure di adozione, per la prima volta meno di 1000. Il Sole 24 Ore apre su la truffa di ieri, scoperta ieri, e altre truffe. Reddito di cittadinanza, controlli difficili, ma crescono le truffe. Iniziamo come sempre però da qualcosa di, o meglio, non laterale, iniziamo proprio qua dal Sole 24 Ore, va? Iniziamo da questa operazione di ieri che avete sentito anche in GR24, il pezzo da firma Ivan Cimmarusti a pagina 5 del Sole 24 Ore, ed è una delle tante storie di quest'ultimo periodo che hanno a che fare appunto con il reddito di cittadinanza e la truffa per ottenere il reddito di cittadinanza. È nelle pieghe della burocrazia, racconta Ivan Cimmarusti, che si sono inseriti 237 residenti nella Locride, tutti denunciati perché percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritti. Alcuni sono in carcere con l'accusa di essere affiliati all''ndrangheta, ma ci sono anche proprietari di ville di lusso con Ferrari nel garage e imprenditori e professionisti con partita IVA che, pur avendone l'obbligo, non avevano presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Stando ai conteggi della Guardia di Finanza di Locri, la frode complessiva ammonta a 870.000 euro. A Modena, invece, la polizia locale ha scoperto un finto senza fissa dimora che aveva ottenuto 4.000 euro, pur essendo intestatario di 78 autoveicoli e di una concessionaria. No, vabbè, ragazzi. Allora, raccontaci Marusti, tra l'altro, che questo tipo di truffe non riguarda naturalmente solo il reddito di cittadinanza, insomma, no? Nel periodo da gennaio 2018 a maggio 2019 i dati della Guardia di Finanza ci dicono che 157 milioni di euro sono stati erogati a oltre 13.000 soggetti che erano riusciti ad ottenere agevolazioni in ambito previdenziale, assistenziale e sanitario senza averne il diritto. Per quanto riguarda poi i due affiliati all''ndrangheta, legati all''ndrangheta, che percepivano il reddito di cittadinanza, da una parte intascavano il reddito, dall'altra facevano parte di un sistema di gestione dei giochi illegali che ripuliva il denaro sporco in Canada. Affiancato a tutto questo c'è un pezzo di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci che fanno notare come qua ci sia un problema di controlli, perché a fronte di una platea di 1,6 milioni di domande presentate, fare i controlli per chi veramente ha diritto al reddito di cittadinanza non è facile. Nota Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro alla Bocconi di Milano, intervistato qua appunto da Pogliotti e Tucci: aggravare le sanzioni penali non serve a nulla se non si garantisce la certezza e la pena, e aggiungiamo noi ovviamente i controlli. Veniamo ad un'inchiesta a proposito di furbetti, e qua furbetti si fa per dire davvero, sono persone che mettono a rischio la salute pubblica. Parliamo dei Novax e di un'inchiesta della quale troviamo tracce in vari giornali, e forse la traccia più approfondita è sul Fatto Quotidiano, in un pezzo firmato da Giuseppe Pietrobelli a pagina 15. Ed è un'inchiesta della Procura di Belluno, la quale per la prima volta sostiene che il vaccino, la questione di vaccinare i figli, non è un affare privato. E fa scattare questa inchiesta, che è un'inchiesta pilota, se vogliamo, ed è molto dura. Paolo Luca, procuratore della Repubblica di Belluno, ha dato il via a un'inchiesta che sta scuotendo il mondo scolastico e dimostra che se le leggi vengono approvate obbligando alle vaccinazioni, poi devono essere applicate. Non si può sperare di farla franca con una semplice autocertificazione che nessuna controlla. E dunque l'indagine riguarda sì i genitori furbetti Novax, quelli che hanno autocertificato senza invece effettivamente aver fatto le vaccinazioni, ma anche i dirigenti scolastici che hanno accettato senza fare verifiche le dichiarazioni delle famiglie secondo le quali i loro figli erano in regola con tutti i vaccini. Dunque, nella prima categoria ci sono un centinaio di indagati, ossia i genitori, e sono stati notificati decreti penali di condanna per falsa dichiarazione al pubblico ufficiale. I dirigenti, appunto, sono una trentina complessivamente quelli indagati. Ho avviato un'indagine capillare partendo da Feltre per passare poi a Belluno, al Cadore, alla Gordino e ad altre zone della provincia, ha spiegato il procuratore, appunto, Paolo Luca. Sono stati spulciati i nomi dei bambini realmente vaccinati finché è rimasto un elenco di inadempienti. Prima di Natale sono stati notificati un centinaio di decreti penali di condanna, la gran parte dei destinatari si è affrettata a pagare 1.125 euro. E però, insomma, un'azione penale ci pare pilota, e che sarà interessante vedere se avrà sviluppi e se verrà presa in mano come filone, per così dire, da altre procure. Bisognerà anche vedere che cosa diranno i dirigenti scolastici su questo, perché anche da quel lato il lavoro non è semplicissimo a fronte appunto di qualcuno che ti porta all'autocertificazione. La Verità a pagina 10 ci porta invece nelle Marche per un'altra inchiesta, un'inchiesta che colpisce praticamente un ventennio, racconta Carlo Cambi, di governo del centrosinistra, nelle Marche, e ha a che fare con l'aeroporto. L'ennesimo buco italiano, no, di fondi pubblici infilati là dentro senza grandi risultati, a quel che racconta, a quel che viene raccontato appunto sulla Verità. Marche dice, cita lo spot, ve lo ricorderete, quello di Giancarlo Giannini: Marche, bellezza infinita, forse di certo irraggiungibile, visto che l'aeroporto di Ancona è stato un pozzo senza fondo che ha inghiottito fiumi di denaro pubblico, con il risultato di stare perennemente in prefallimento, di essere privatizzato per il rotto della cuffia e avere oggi al massimo 6 voli. Da Raffaello Sanzio, così si chiama lo scalo assediato dall'erbace, con un parcheggio fatiscente che ha tariffe da capogiro, zero servizi ed è in infinita attesa di rilancio, però è decollata un'inchiesta con 77 indagati. Sotto inchiesta ci sono tutte le giunte che si sono succedute dal 2002 in avanti, la prima guidata da Vito D'Ambrosio, poi le due di Gianmario Spacca, infine la giunta attuale, quasi a fine mandato, si vota in primavera, quella di Luca Ceriscioli. I tre governatori sono tutti indagati e con loro una quarantina tra ex attuali assessori, poi tecnici, ingegneri e imprenditori. Per tutti l'accusa è di peculato con varie gradazioni, dal concorso all'aggravato. Ceriscioli commenta l'inchiesta che lo vede coinvolto e dice, insomma, dato che noi abbiamo privatizzato poi l'aeroporto, se guardiamo la cosa da un'altra prospettiva, si potrebbe dire che i magistrati riconoscono a me e alla mia giunta di aver fatto qualcosa di straordinario, ovvero aver salvato l'aeroporto. Certo che c'è questa nuova inchiesta e questa inchiesta, potete scommetterci, avrà un peso nelle elezioni che ci saranno in primavera. Prima di chiudere questa parte, andare poi dal nostro Paolo Mieli, col quale toccheremo ovviamente anche i temi della politica, ma non solamente quelli, ci sono due cose rapide che vi voglio segnalare. La prima ce la riporta il giornale a pagina 15 con un pezzo di Erika Orsini da Londra ed è il racconto di una innovazione legislativa che prende Londra e sulla quale forse molti paesi potrebbero prendere esempio. È la legge di Jack, si chiama così, in memoria di un bambino, Jack Heard, che morì annegato in un laghetto a soli 23 mesi nel 2010. Quando accadde la disgrazia, il padre del piccolo scoprì con raccapriccio che poteva assentarsi al lavoro soltanto per 3 giorni e uno di questi doveva essere il giorno del funerale. Ebbene, arriva questa legge, la legge più avanzata sotto questo aspetto, almeno da quel che sappiamo, permesso di 14 giorni per piangere i figli morti, un permesso che andrà sia al padre che alla madre, nota giustamente Ricorsini, sopravvivere a un figlio è la cosa più innaturale che possa capitare a un genitore, e allora questi 15 giorni sono poco, certo non servono a ricostruire questo dolore, ma servono ovviamente a dare un attimo di respiro in un momento così devastante. Infine, lo trovate un po' su tutti i giornali, però non è male questa storia, dalla Città del Vaticano, l'inchiesta di Donne Chiesa Mondo, il quotidiano del, diciamo, il settimanale dell'Osservatore Romano, che si occupa di donne e che riguarda le suore. Molte suore nel mondo, ci racconta a pagina 21 Gianguido Vecchi, vengono colpite dal burnout, la sindrome da stress da lavoro, e la disparità di genere tra uomini e donne nella Chiesa ne è una delle ragioni. È il racconto in questa inchiesa, appunto realizzata da Donne Chiesa Mondo, a che fare col calo delle vocazioni, coi conventi che chiudono, con la gestione dei beni, la pesantezza di strutture talvolta organizzate ancora come nei secoli passati. E poi ci sono però anche gli abusi sessuali e di potere commessi dagli uomini di Chiesa. Pausa. Mattino. Oh, quanti avete fatto la battutona non sardonico ma sardinico? Troppi. 3 o 4. Caro Paolo Mieli, caro direttore, buongiorno. Sono pronto. Eccoci qua. Allora, tra un attimo arriviamo alla politica, a questo momento preelettorale, il nostro ultimo appuntamento prima delle elezioni in Emilia-Romagna, e però prima andiamo un po' all'estero, andiamo un po' al virus cinese. 20 milioni in quarantena, chiusa la città proibita, Pechino che annulla il Capodanno, questo è il titolo del reportage di Guido Santevecchi sul Corriere della Sera a pagina 3. Abbiamo i passeggeri italiani schedati, quelli del volo da Wuhan, e poi la vicenda della donna di Bari che, a quanto pare, ultime notizie ci dicono che, insomma, non sarebbe collegato a questo coronavirus. Sì, Francesca Cerati sul Sole 24 Ore rassicura, un caso sospetto a Bari, ma dopo i primi controlli è entrato l'allarme e l'articolo del Sole 24 Ore recina oltre 20 milioni in quarantena, ma altro dato rassicurante, l'Organizzazione Mondiale della Sanità troppo presto per dichiarare l'emergenza di salute pubblica. C'è un'altra cosa sul Sole che mi ha incuriosito, un lavoro che ha fatto Pierangelo Soldavini, che è andato da Alipay a guardare che giro d'affari mette a rischio questa faccenda del coronavirus. Sono 3 miliardi di euro. Cos'è Alipay? È la piattaforma di pagamenti digitali via smartphone del gruppo Alibaba, con cui quasi la totalità dei cinesi fa shopping quando si trova all'estero. Bisogna dire che quando i cinesi viaggiano all'estero, sempre attraverso questa piattaforma, si calcola che in Italia rimangano 2 notti di media, quindi non sono viaggi lunghi. In realtà quando vengono in Europa, vengono appunto in Europa, e l'Italia dà una sosta da 2 notti. Comunque, servizi da leggere. Chi vuole sicurezza, Francesca Angeli sul Giornale elenca le 10 cose da sapere. Alcune sono ovvie, ma altre sono più curiose: quali sono i primi sintomi, tosse e febbre, qual è, come si arriva alla diagnosi. Insomma, 10 punti, pagina 13 del Giornale, e uno può stare tranquillo. Chi vuole invece divertirsi, deve leggere il Giornale Libero, che a pagina 11 pubblica un articolo di Maurizio Stefanini molto sfattente. A Pechino mangiano i serpenti e poi crepano. Per l'analisi genetica il morbo è passato dai rettili ai pipistrelli e da questi all'uomo. L'igiene del dragone è un problema. Insomma, un articolo, non dico razzista, non mi permetterei mai, però un articolo però sul filo, molto sul filo molto duro nei confronti dei costumi e della pulizia dei cinesi. Maurizio Stefanini sul Libero. Ascolta, un tema che, se vogliamo, alla lontana ci riguarda, perché tanto abbiamo discusso in questo paese di ius soli, ossia il diritto ad avere la cittadinanza se si nasce sul territorio italiano, ed è un diritto che in America esiste, negli Stati Uniti esiste, per tutto una serie di ragioni storiche. Arriva notizia oggi che sono in approdo delle restrizioni volute dal presidente americano Trump, le riportano il Corriere della Sera, pagina 12, lo stop ai visti per le donne incinte. Fermi tutti, vediamo se recuperiamo il direttore Paolo Mieli. Beh, è andata bene per troppi giorni, per troppe giornate con Paolo Mieli era andato bene il collegamento. Vediamo se adesso riusciamo a recuperarlo. Carmelo Lauricella, vabbè, lo stiamo chiamando. Comunque ve la cito io, questo pezzo di Giuseppe Sarcina, che racconta un po' questa decisione di Donald Trump, no? Il visto respinto causa gravidanza. La Casa Bianca annuncia che a partire dal 24 gennaio il Dipartimento di Stato non concederà più permessi d'ingresso temporanei agli stranieri che cercano di entrare negli Stati Uniti per il turismo delle nascite. È uno strappo importante rispetto a una regola che era stata introdotta nel 1868 dal 14° emendamento della Costituzione americana. Prima di andare alle nostre cose, direttore Paolo, e quindi parliamo un attimo anche di taglio delle tasse sul lavoro, un ascoltatore ci dice: non ho più notizie di Harry e Meghan, sono in ansia, ci dice Roberto da Verona. Tu hai visto niente oggi sui giornali? Non mi pare, vero? No, io ho deciso che adesso non ne parlo, perché ci sono, come ogni giorno, ci sono notiziole su Harry e Meghan, però adesso la patria chiama, ci sono le elezioni decisive domani, il coronavirus. A proposito della cosa che dicevi sulle donne incinte che non possono più partorire dal 24 gennaio, cioè da oggi, e che è un problema minore, ogni anno sono 33.000 le donne straniere su i migranti che già stanno in America sono 47 milioni, ecco, non mi sembra una cifra straordinaria, però Trump ha deciso di intervenire anche su questo, perché c'è un articolo molto divertente di Federico Rampini sulla tweetmania di Trump, sì. È su Repubblica, pagina 15, dice che ieri era in volo per Davos, ha fatto il record, 142 tweet in un giorno, lo fa perché è sotto, certo, impeachment, insomma a rischio di impeachment. E senza i social non sarei qui, si giustifica il presidente statunitense. Leggere pagina 15 di Repubblica, di Repubblica. Molto divertente. Veniamo al taglio delle tasse sul lavoro. È arrivato ieri il decreto nella notte, che era stato rinviato all'inizio per un problema tecnico collegato all'estensione del bonus ai redditi, ci racconta, ai redditi da 26.000 a 28.000 euro. Poi il decreto è andato verso lo sblocco, siamo a pagina 3 del Sole 24 Ore, dove i nostri ascoltatori possono trovare tutti i dettagli e possono trovare nel pezzo di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci anche un bel grafico che dice, a seconda del loro reddito, quanto potrebbero intascare di più, no, nei prossimi sei mesi. Sì, la notizia nascosta tra le righe di tutti i giornali è che, per alcuni, lo dice più chiaramente forse Andrea Bassi sul Messaggero, per alcuni problemi questo aumento, il taglio limitato, il bonus da 100 euro sono solo per sei mesi, perché insomma alla fine, nella concitazione di un annuncio fatto il venerdì prima di importanti elezioni, questo è accaduto. E siccome, come tu stesso dicevi, come dice l'articolo di Pogliotti e Tucci, queste arrivano in porto delle misure che sono già state studiate nelle settimane, anzi nei mesi scorsi, questo modo di fare l'annuncio il venerdì prima delle elezioni, anzi la notte fra giovedì e venerdì prima delle elezioni, è un po' buffo, è un po'... Da paese... un po' sospetto, mettiamola sì, così. Ma poi anche... è inefficace, perché non credo che ci saranno degli emiliani che dicono, il governo ci ha fatto il bonus, allora cambio decisione di voto. Quindi, infatti. Secondo me potevano rinviarlo a martedì, guarda, sì. Non avrebbe fatto danno se lo rinviavano a martedì. Traffico. Le 7, 47 minuti e 26 secondi, siamo finalmente alla parte politica. Più avanti, lo ricordo agli ascoltatori, alle 8:20 avremo ospite Stefano Bonaccini, il candidato del centro-sinistra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. Ieri abbiamo avuto Lucia Borgonzoni, quindi insomma, parleremo e avremo ospite anche il candidato del Movimento 5 Stelle alla Regione Calabria, perché si vota anche in Calabria, anche se un po' ce lo stiamo dimenticando. Vero Paolo? Sì, ce lo stiamo dimenticando. In realtà su molti giornali si danno notizie sulla Calabria che sono meno tranquillizzanti in generale, non politicamente, ma tranquillizzanti in generale sulla situazione, per quello che riguarda la situazione in Calabria, di quelle che riguardano l'Emilia. Adesso non mi va di dire banalità, ma sono due regioni molto diverse che sembrano agli antipodi. Comunque le elezioni. Sì. Sì? No, dico, ti porterei, prima ancora di andare al tema delle elezioni in Emilia-Romagna, sulla decisione di ieri della Cassazione di dare il via libera al referendum sul taglio dei parlamentari. Ed è una cosa che, a prescindere da come andrà questo voto, avrà un impatto sulla durata della legislatura, cioè su quando si voterà. Anche se su questo impatto vedo che c'è incertezza, nel senso che Massimo Franco, che è il notista del Corriere della Sera, dice che blinda la legislatura, che secondo indiscrezioni il Capo dello Stato direbbe no, adesso stiamo in vista del referendum, basta, non si vota più, se ne riparla fra tre anni. Mentre invece, secondo Lina Palmerini, sul Sole 24 Ore le cose sono molto incerte. Addirittura, proprio a proposito del tema che tu sollevi, quello dell'impatto di questo referendum, significa che il popolo è chiamato a ratificare la decisione del taglio dei parlamentari e tutti i sondaggi danno per scontato che la ratificherebbe. E secondo i giornali potrebbe anzi, alcuni giornali, accelerare la fine della legislatura. Però diciamo la verità, tutto sta a quello quello che accade domenica in Emilia, in Calabria, ma soprattutto in Emilia, diciamo pure in Emilia Romagna, così siamo completi. Sì, in Emilia Romagna, dove appunto ieri è stata la giornata delle due piazze a Bibbiano, con Salvini da una parte e le tue amiche sardine dall'altra. Le mie amiche sardine, secondo il manifesto, hanno stravinto. Proprio il titolo è come se fosse una partita Salvini-Sardine, a Bibbiano vincono le sardine, l'articolo è di Giovanni Stinco, PD e Movimento 5 Stelle a Bologna per pochi, cioè ne fanno anche una questione però di frustate o frustatine nascoste nei titoli dei partiti che poi effettivamente si presentano alle elezioni. Cioè, alla manifestazione per questi partiti vanno in pochi, alla manifestazione per le sardine vanno in molti. Comunque Sardine e Salvini, leggo sul manifesto, fido del manifesto, hanno vinto. Gli altri giornali sono più incerti sulle elezioni, perché sembrava che la partita fosse abbastanza semplice per Bonaccini, che ha un buon curriculum da governatore, ma io noto delle incertezze sull'esito di questa partita, anche perché questa tempesta che è scoppiata fra i 5 Stelle è una tempesta, cioè da una parte Pignaretti ha annunciato che farà un partito nuovo, tutto cambiato, bizzarro annuncio alla vigilia delle elezioni, cioè uno potrebbe fare il giorno dopo. Dall'altra è scoppiato, è andato in frantumi Manuela Ferrone sul Sole 24 Ore, è andato in frantumi il Movimento 5 Stelle e insomma poi si vota anche per i partiti oltre che per i candidati. Comunque. Tra l'altro, ecco, proprio sul Movimento 5 Stelle ti volevo portare, qua abbiamo come sempre in questi casi il florilegio delle ipotesi sulla leadership del Movimento 5 Stelle. Allora, se da una parte abbiamo Vito Crimi che sia col Messaggero che col Corriere della Sera dice no, a questo punto sono io il capo, almeno per il momento comando io, non sono solamente un passacarte, eccetera eccetera, dall'altra parte si fanno i giochi per chi sarà il prossimo leader, si va da Ilario Lombardo, che è uno che se ne intende, in genere ci azzecca sulla stampa, dice che sarà Paola Taverna. Il Fatto però, che ne sa moltissimo dei 5 Stelle, dice che saranno altri. Ma per il momento poi si vedrà, dipende anche da quello che accade alle elezioni. Siamo alle siamo alle diverse previsioni, tra l'altro non è che conta moltissimo chi sarà il leader, nel senso che Di Maio aveva una storia ancora più giovane, una storia lunga, adesso chi sarà il nuovo leader. La verità è che il Movimento 5 Stelle è diviso fra quelli che vogliono andarsene autonomamente, cioè restare autonomi, e quelli che vogliono andare in braccio al PD, detta in modo molto semplice. Questa divisione continuerà a esserci, mette in allarme, allarme Conte, che c'è un articolo di Tommaso Ciriaco su Repubblica, non andrà a Davos, è molto preoccupato, e anche questo è un segno, anche questo è un segno. Mi ha incuriosito un articolo sulla Stampa di Giovanni De Luna, storico molto quotato, che racconta come l'Emilia sia stata incubatrice dai fascisti alle sardine. Bizzarro paragone, dice che in Emilia si manifestarono all'inizio degli anni 20 i fascisti, di lì presero la corsa e adesso tornano le sardine, ovviamente non è che li mette sullo stesso piano, però è una notazione che mi ha incuriosito. Sardine che ci informa la Repubblica pagina 4, per rimanere in tema, che si rifondano a Scampia, è stato scelto il quartiere di Napoli per il congresso, quindi già siamo al congresso, è quasi un partito che servirà a dare al movimento una struttura e una carta dei valori. Anche questo vuoi è ascoltare elemento... la mia previsione? Vai. Se in Emilia vince la sinistra, vince Bonaccini, delle sardine si parlerà ancora moltissimo. Se Bonaccini perde, delle sardine si parlerà assai meno, quasi per niente, e qualcuno farà sberleffi. Questo così andrà. Quindi domenica si decide la sorte del paese, la sorte di Conte, ma anche la sorte delle sardine. Forse non avremo più occasione di parlare, qualche volta di sorriderne. Comunque, la conferenza episcopale e il capo della polizia sono criticano Salvini per la citofonata, certo, articolo di Mario Salvini a Iossa sul Corriere della Sera. E sai cosa c'è in fondo? Tornano vecchie storie su Berlusconi. Il boss Giuseppe Graviano ha fatto un'allusione alla sua dichiarazione dicendo gli attentati del 93 ci ricommissionarono gli industriali del nord. Non è un'accusa diretta, però Giovanni Bianconi, sempre sul Corriere della Sera, coglie l'allusione. E Berlusconi, per farci sorridere, è andato a fare un comizio in Calabria, dove ha assicurato che lui non ha mai avuto rapporti sessuali con la candidata Iole Santelli, la quale poi ha detto era solo una battuta. Dobbiamo veramente chiudere. Paolo, grazie direttore, ci risentiamo lunedì al risultato acquisito, speriamo, delle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. Ci fermiamo, GR24, a tra poco.